Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Eccoci questa mattina di nuovo a tornare sul recente caso, l'ennesimo italiano, di risparmio tradito. Quel caso che la scorsa estate ha animato e scaldato non poco la cronaca finanziaria, vale a dire la vicenda dell'istanza di fallimento per i viaggi del ventaglio. Un vero e proprio simbolo dei pacchetti vacanza made in Italy in tutto il mondo, schiacciato da un buco di 200 milioni di euro. Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento il 15 luglio scorso, ma la nuova tegola per il gruppo è arrivata la settimana scorsa con un'altra decisione, un altro fascicolo aperto dalla Procura di Milano, con l'ipotesi di reato di truffa appunto ai danni dei creditori. In particolare l'avvio dell'inchiesta è arrivato in seguito alle denunce presentate da alcuni viaggiatori che avevano comprato pacchetti del gruppo della famiglia Colombo e che naturalmente non erano potuti partire a causa del fallimento appunto dichiarato dal Tribunale di Milano. Con l'apertura del fascicolo i magistrati stanno effettuando naturalmente ulteriori accertamenti sul gruppo e non è esclusa, come già ipotizzato all'indomani della dichiarazione di fallimento, un'indagine per bancarotta fraudolente. Allora, noi oggi facciamo il punto della situazione perché per tutti coloro che sono rimasti impigliati e in qualche maniera loro malgrado coinvolti in questa vicenda c'è la possibilità di fare quel passo che si chiama insinuazione al passivo entro qualche mese proprio per rivendicare evidentemente quanto hanno diritto. Noi faremo un punto della situazione su questo stamattina, però faremo anche un altro punto che interessa molti ascoltatori, quello su Alitalia, perché sono in arrivo i BTP per i titolari dei Mengozzi Bond che avevano aderito alla proposta di scambio del Ministero dell'Economia. Non subito, attenzione, ci vorrà ancora qualche settimana, ma comincia ad intravedersi una luce in fondo a questo tunnel infinito, perché i titolari delle vecchie azioni e delle vecchie obbligazioni di Alitalia si aspettavano questi titoli di Stato che il Ministero dell'Economia aveva promesso almeno a marzo, invece siamo ancora a settembre e non si è visto un bel niente. Per cui abbiamo richiamato un po' di persone che ci aiutano sempre così a fare un po' di chiarezza su queste tematiche. Do il saluto e il benvenuto a Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum e l'uomo delle grane finanziarie e bancarie di questa associazione dei consumatori. Picciolini, buongiorno. Buongiorno, mai del parmesan però. Come, scusi, non abbiamo... Mai del parmesan però come grane. Ah sì, cioè... Senta, a proposito, non la definirei una grana, perlomeno non lo è per noi, a meno che non siamo azionisti. Che cosa ne pensa di tutta questa faccenda di UniCredit? Beh, UniCredit credo che il passaggio fatto con i libici abbia consentito di far anche a questa grandissima banca italiana di non arrivare alle condizioni in cui sono arrivati negli Stati Uniti. Dopodiché vedo tanta... come si può, quindi grave crisi, addirittura rischi di fallimento. Purtroppo vedo che le problematiche interne, politiche, bancarie, istituzionali, non so più come chiamarle, stanno entrando nuovamente, e questo mi preoccupa, nel settore bancario. Senta, lei lo sa che tanto adesso cominceranno in molti a preoccuparsi su come correntista cosa devo fare, io ho un mutuo di UniCredit cosa devo fare, nulla cambia, voglio dire, per la gestione dell'ordinario, qua sono anche vicende finanziarie e politiche molto alte che naturalmente non devono assolutamente turbare i sonni dei correntisti, di chi ha i mutui, di chi ha le obbligazioni di UniCredit. Assolutamente nulla, ci sarà un nuovo amministratore delegato che sarà di gradimento del consiglio di amministrazione e quindi di tutti quanti i soci, a partire, che poi da lì è nato un po' tutto, dalla Cassa di Risparmio della Fondazione, della Cassa di Risparmio di Verona, per cui il consumatore avrà i suoi mutui, avrà il suo banco, ma avrà il suo conto corrente tranquillamente, non cambierà assolutamente nulla, anzi. Se le persone si preoccupano, fanno un danno a se stesse. Esatto. Comunque noi abbiamo chiamato Fabio Picciolini per farci il punto su Alitalia. Adesso gli chiedo solo un attimino di pazienza perché so che deve salutarci, anzi chiedo un minutino di pazienza all'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore, che invece ci aiuterà su Viaggi del Ventaglio. Avvocato, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno. E bentornato, buongiorno. Anche a Francesco Panseri, vicepresidente dell'Associazione Amici Veri. Questa è un'associazione che raccoglie e raduna 3.000 soci ex vacanze nel mondo. Panseri, buongiorno. Anzi, io le ho dato il bentornato, ma lei è la prima volta che interviene nella nostra trasmissione, perché l'altra volta era stata invece era stato presente il presidente della vostra associazione, Dario Avellis. Quindi, sì, esatto. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. buongiorno. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi e le vostre domande. Prima di raccontarvi la borsa, prima di sentire la scheda sui viaggi del ventaglio, io vorrei subito chiarire le questioni su Alitalia, perché poi ribadisco, Fabio Picciolini ci deve salutare, quindi vi spiego un po' qual è il punto della situazione immediatamente, poi chiuderemo la puntata con appunto viaggi del ventaglio. Picciolini, è in via di conclusione, secondo quanto hanno raccontato alcuni quotidiani in questi giorni, lo scambio dei titoli Alitalia con titoli di Stato di nuova emissione. Questi titoli di Stato che hanno scadenza 31 dicembre del 2012, quindi hanno 2 anni di vita, non riconoscono nessuna cedola, ma in sostanza viene riconosciuto questo risarcimento a tutti quei risparmiatori che avevano in mano obbligazioni della vecchia Alitalia e, questo è un tema molto importante, azioni della vecchia compagnia di bandiera, perché questo rimborso rappresenta anche un precedente importantissimo. Detto questo, ci sono delle scadenze precise a cui i risparmiatori possono fare riferimento? Quando vedranno nel proprio conto titoli questi nuovi BTP, questi nuovi titoli di Stato in cambio dei loro vecchi titoli? Vorremmo saperlo un po' tutti, perché i giornali purtroppo hanno dato una notizia vera ma non completa. Qual è la situazione attuale? Entro il 30 di settembre le banche che hanno depositi, titoli con dentro obbligazioni o azioni all'Italia dovranno comunicare la presenza di questi depositi al Ministero dell'Economia. Punto. Questa è la situazione attuale. Dopodiché il Ministero dell'Economia provvederà, ma per quello che mi riguarda, ovviamente vista la trasmissione stamattina stessa sono a vedere il CEO dell'Economia, nulla c'è scritto circa il momento in cui viene appunto, verrà poi rimborsato il 71% circa per gli obbligazionisti, il 27% circa dell'ultimo prezzo di mercato per gli azionisti. Quindi è un passaggio importante, fondamentale. Sono certo che il Ministero cercherà di accelerare i tempi, ma noi sappiamo anche, perché non è solo l'Italia che ha avuto problemi in questi ultimi 10 anni, che purtroppo i tempi di rimborso sono abbastanza lunghi, quindi noi siamo con gli occhi aperti, abbiamo partecipato e conosciamo anche le varie associazioni di riferimento, sia di obbligazionisti che di azionisti, sia di dipendenti, perché sono anche molto coinvolti i dipendenti che hanno preso premi di produttività e liquidazioni in obbligazioni e azioni all'Italia. Per cui noi siamo con gli occhi aperti, ma io credo che poi la migliore autodifesa è sempre la propria. Noi siamo a disposizione di tutti e se vogliono possono cercarci, ma tutti stiano con gli occhi aperti. Qual è il bilancio, Picciolini, dei risparmiatori coinvolti in questa operazione che in gergo finanziario si chiama swap, ma è banalmente proprio uno scambio? A quante migliaia ammontano circa? Avete fatto il numero esatto non si sa, perché si può parlare di obbligazionisti e sono qualche decina di migliaia, ma gli azionisti bisognerebbe sapere fino in fondo com'è il libro soci della società. Certamente non sono pochi. Il punto di fondo è che sono 100 milioni. L'unico dato certo è che la disponibilità, avvalendosi del fondo accantonamento conti dormienti, che tra l'altro è fermo anche per le altre situazioni, Parmalat, Ciri e via dicendo, ha destinato 100 milioni alla obbligazionisti e azionisti Cirio. Mi permette, cioè, all'Italia. All'Italia. No, non dica quest'altra parola, perché sennò qua si apre un'altra puntata. No, mi permetta solamente di aggiungere una cosa che lei ha detto e su cui noi stiamo punteremo molto anche in futuro. Per la prima volta in Italia viene rimborsato anche il capitale di rischio, ovvero le azioni. Perché? Perché è segno che è stata riconosciuta una responsabilità da parte dell'emittente, e questo è un precedente che ovviamente noi già stiamo usando nei giudizi che abbiamo in corso per altre situazioni e useremo in futuro, perché appunto alcune vendite di alcuni prodotti, titoli finanziari, sono state fatte in maniera non adeguata, perché siamo in trasmissione. Certo, allora, quindi, per essere chiari con chi ci ascolta, la scadenza, il prossimo step non è quella di vedervi accreditato sul conto titoli nessun tipo di importo, ma lo step è quello del 30 settembre, quando il Ministero dell'Economia, in virtù di una richiesta precisa che ha fatto agli intermediari finanziari, presso i quali sono depositate le vecchie azioni e le obbligazioni della compagnia di bandiera, il Ministero dell'Economia appunto ha chiesto a questi di trasferire entro il prossimo 30 settembre su un conto del Ministero dell'Economia i titoli in loro possesso. Dopodiché si farà questa conversione e praticamente ci sarà un passaggio poi al contrario sui conti titoli dei clienti. C'è una domanda prima di salutarla, Picciolini, da parte di un ascoltatore che è Mario da Napoli. Mario, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Senta, il discorso è questo. Io ho 10.000 azioni all'Italia che mi costarono 8.500 euro. Mm. Al che mi mandarono una lettera se volevo aderire a questo fatto di prendere questi specie di bot, di bond, sì, che poi il BTP, governo mi dà. Sì, sì. Io non ho aderito. Sì. Vorrei sapere i miei 8.500 euro che spesi, che fine faranno? Stanno sempre sul conto mio titoli. Adesso sta segnato che valgono un euro, secondo quello che dice. Certo, secondo lo scambio, però lei secondo... non avendo accettato, Mario, io temo che a questo punto è come quella domanda che ci fa Antonio da Torino, che dice: io azione all'Italia, non ho aderito all'offerta, cosa devo fare? Picciolini, cosa rispondete a chi vi pone una questione dello stesso tipo? Perché molti magari avranno considerato del tutto insoddisfacente l'offerta del Ministero dell'Economia. La situazione purtroppo è anche peggiore di come è stata detta, e mi dispiace per l'ascoltatore, perché ovviamente le situazioni valgono zero, perché sono state messe 9 azioni infatti, in Italia. Ha dei titoli di qualcosa che non esiste più. Esatto, fra l'altro quella quotazione a un euro è un artificio che noi stiamo cercando di combattere da anni affinché resti aperto il conto titolo e quindi si paghino anche delle spese. Noi crediamo che in queste, siamo convinti che in questi casi invece il conto titoli vada chiuso e si risparmiano almeno quei 20, 30, 50 euro che sono necessari per il conto titoli. Quindi niente, il signore non ha purtroppo nessun valore in mano. E infatti spiace dirlo con il senno di poi, però veramente in questo caso, visto che si era aperta questa opportunità e addirittura un rimborso agli azionisti a capitale di rischio di una società, forse valeva la pena prenderlo questo treno, anche se molto sconfortante l'importo evidentemente proposto. Ma se considerate che gli azionisti di Parmalat non hanno preso niente, di tutte le società che sono fallite non prenderanno più niente, e insomma forse magari valeva la pena approfittarne. Picciolini, la saluto, grazie. Posso dire una notizia anche su Parmalat comunque? Sì, va bene, 30 secondi, non di più. Non di più, è che sul Tribunale di Parma si sta avviando la seconda tranche del processo civile penale contro Tanzi e Company, e sarà possibile in questo caso che le persone fisiche coinvolte si presentino come parte civile. Milano è andata bene, spero che vada bene anche a Parma. Ci organizziamo per un'altra puntata, Picciolini. Peraltro c'è anche un altro bel tema di cui parlare, la conversione invece dei titoli di Stato dei Tango Bond avvenuta in agosto, e anche lì sarebbe interessante rifare un punto della situazione. Grazie, buona giornata. E mentre continuano ancora ad arrivare molti messaggi di considerazioni sulle vicende di Alitalia, di cui abbiamo fatto il punto poco fa, ovviamente quelle vicende che riguardano soprattutto i vecchi azionisti e i vecchi obbligazionisti, qualcuno dice come Antonio, ma insomma a differenza di Parmalat, Alitalia era un'azienda di Stato, beh Antonio era un'azienda privatizzata, era in borsa, doveva come tale rispondere anche a certi parametri e certi requisiti di comunicazione verso l'esterno, e ricordiamoci anche che in un certo frangente, quando stava andando tutto allo sfascio, c'è stato anche in sostanza un governo che ha promesso il mantenimento sotto la bandiera italiana di questa azienda, poi invece è stata ceduta, spezzettata e venduta, per cui ci sono state anche altre vicende a differenza di Parmalat che l'hanno riguardata, segno che evidentemente poi in qualche maniera il Ministero dell'Economia ha voluto rispondere anche di tutto quello che è successo in quella fase, risarcendo i vecchi obbligazionisti e anche i vecchi azionisti. Direi che però non è il caso di tornare su vecchie considerazioni, ma andare invece ai nuovi capitoli che si sono aperti su un altro crack recente, quello di cui abbiamo raccontato molto quest'estate, cioè quello di Viaggi del Ventaglio. I casi di risparmio tradito sono senz'altro uno degli strascichi più dolorosi della crisi finanziaria mondiale di questi anni. E non solo. Tra i casi più recenti che hanno visto coinvolti per un verso o per l'altro migliaia di risparmiatori italiani, c'è la vicenda di Viaggi del Ventaglio, sulla quale da qualche giorno si è affacciato anche il sospetto di truffa. La Procura di Milano ha infatti aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato ai danni dei creditori e non si esclude anche un'indagine per bancarotta fraudolenta. Quello del tour operator, già dal 2005 nella blacklist della Consob, si può infatti considerare un dissesto economico annunciato, e per questo forse si potevano evitare i disagi arrecati ai creditori, ai fornitori e naturalmente ai viaggiatori, che avevano già acquistato pacchetti vacanze poi andati in fumo. Alle tante famiglie che vogliono capire come siano andate davvero le cose, non resta ora che aspettare e informarsi con attenzione sulle procedure necessarie per richiedere i risarcimenti. Una sorte che le accomuna a molti altri risparmiatori trovatisi in difficoltà in questi anni, dai casi made in Italy come Parmalat e Cirio, a coloro che sono incappati nella vicenda dei Tango Bond. Per questi ultimi, molti dei nodi si sono sciolti nel corso di questa estate. A partire dalla metà di agosto, ha preso il via lo scambio tra vecchi titoli di Stato e quelli offerti dal nuovo swap proposto dal governo argentino. Oppure dei 100.000 sottoscrittori che hanno aderito all'offerta di scambio dei vecchi Alitalia Bond e che si vedranno corrispondere titoli di Stato con scadenza 2012 e senza cedola entro la fine dell'anno. La borsa è positiva per chi la chiede, più 0,49% a Piazza Affari, bene anche gli altri listini in attesa oggi della Federal Reserve della Banca Centrale Americana sui tassi di interesse. Unicredit continua a scendere adesso dello 0,8%, ma in avvio perdeva 4 punti, quindi ha recuperato bene. Allora, di nuovo buongiorno agli ospiti che ci accompagneranno in questa ultima parte di Salvadanaio, l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore, che dalla dichiarazione di fallimento il 15 luglio di Viaggi del Ventaglio ha cominciato appunto a seguire in maniera molto più intensa rispetto, credo, a quanto non avesse fatto nei mesi passati, le vicende di questa grande azienda, il nostro vanto nel settore del turismo, insomma la nostra bandiera nel turismo in tutto il mondo. C'è stata appunto questa dichiarazione da parte della Procura di Milano il 15 luglio, ribadisco. La puntata di settembre invece, l'apertura del fascicolo sull'ipotesi di reato di truffa ai danni dei creditori è stata nel frattempo anche intervallata da un ricorso fatto dalla famiglia Colombo per opporsi rispetto alla dichiarazione di fallimento. Insomma, è una vicenda intricatissima. Di fatto, chi aveva comprato tanti pacchetti viaggi, avvocato Ferrari, è rimasto a piedi nelle ultime settimane, a partire già dall'estate scorsa. Questa nuova ipotesi di reato della Procura di Milano, insomma, che nuovo scenario apre? Ma diciamo che apre essenzialmente le tante denunce che sono piovute riguardano soprattutto il periodo del concordato, quindi diciamo dall'inizio del 2010 sino poi al fallimento, un periodo in cui i Viaggi del Ventaglio ha continuato a operare e vendere pacchetti turistici sia nei confronti di clienti nuovi, no, del tour operator, sia nei confronti di vecchi clienti che aderivano ad esempio al circuito Free Points, quindi che avevano già dei punti per fare dei viaggi, ai quali le Viaggi del Ventaglio aveva offerto invece del riconoscimento dei punti che era stato detto non potevano essere più utilizzati perché pendeva la procedura di concordato, aveva offerto uno sconto sull'acquisto di nuovi pacchetti vacanza, per cui molti si sono ritrovati purtroppo, come si suol dire, cornuti e mazziati, perché non solo hanno perso l'investimento iniziale che risaliva magari a qualche anno fa, ma ulteriormente hanno acquistato una nuova vacanza da farsi quest'estate o nella primavera e poi si sono ritrovati invece a piedi a non poter partire. Ecco, quindi secondo la vostra ricostruzione, che immagino sia anche quella in mano al PM Orsi, che sta conducendo questa inchiesta per la Procura di Milano, quando la compagnia avrebbe dovuto interrompere quantomeno la vendita di tutti questi pacchetti, visto che comunque molti sono stati tranquillamente, molti clienti si sono trovati assolutamente soddisfatti, hanno fatto i loro viaggi. Mi ricordo di molte testimonianze che ci sono state raccontate a luglio, quando abbiamo cominciato subito a ridosso della dichiarazione di fallimento ad occuparci appunto della vicenda. Ma diciamo che soprattutto nell'ultimo periodo, ad esempio dopo che è stata depositata la relazione da parte del commissario, che peraltro derivava anche da ampi colloqui che aveva già avuto con la società in liquidazione, era già un bel po' che si sapeva che la società ormai andava a finire in un probabile fallimento. Ecco, addirittura sì. Dopo la dichiarazione di fallimento ha continuato per qualche giorno a funzionare il sito con le prenotazioni. Ecco, questo è stato in particolare, a noi sono capitate persone che avevano comprato proprio purtroppo il giorno prima del fallimento. Ora non è stata proprio una cosa piovuta dal cielo, assolutamente imprevedibile, perché la relazione di cui noi avevamo dato notizia del commissario era stata molto pesante, per cui insomma era immaginabile che potesse essere quell'esito. La questione è che, a fronte di una gestione finanziaria della società piuttosto discutibile, in realtà il business di fondo funzionava molto bene. Francesco Panzeri, vicepresidente dell'associazione Amici Veri, li abbiamo già interpellati nell'altra trasmissione ed effettivamente questa organizzazione ci ha raccontato di un meccanismo, quello proprio degli amici di Amici Veri, appunto, che funzionava estremamente bene. Panzeri, no? Quindi sì, forse per certi versi, per voi, non dico che sia stato un fulmine a ciel sereno tutta questa situazione, ma direi quasi. No, diciamo che già dall'estate del 2009, quando si andava nei villaggi, circolavano voci sulle difficoltà della società, nonostante le rassicurazioni di chi operava in quel momento nel villaggio. Noi avevamo sentore, tant'è vero che l'attività, per esempio, dell'associazione non è cominciata quando c'è stato il concordato, ma molto prima. Quello di andare a dialogare, a cercare di capire direttamente dalla direzione del ventaglio qual era la situazione, e non l'abbiamo fatto molto prima. Mm-mm. Non ci siamo svegliati, diciamo, all'ultimo minuto per, certo, andare a fare la guerra. Quanti siete, Ferrari? Sì. Perché non ho capito? Quanti siete? So 3.000 soci o ho sbagliato cifra? No, siamo di più, siamo cresciuti. Nel frattempo stiamo crescendo continuamente in termini operativi, come adesioni all'associazione. Noi contiamo di arrivare, se tutto va bene, per la fine anno, per i primi del nuovo anno, intorno ai 5.000 soci. Con l'obiettivo di fare che cosa? Ma guardi, gli obiettivi adesso stanno cambiando, perché ovviamente la realtà della situazione cambia continuamente. Noi appena abbiamo iniziato una serie di informazioni nei confronti dei nostri soci per verificare l'opportunità di dichiararsi parte lesa, parte civile, nell'eventuale processo nei confronti di chi sarà condannato. Ora come ora è contro ignoti l'azione del PM, ma sicuramente verrà fuori il vero responsabile. Nei confronti di questo noi abbiamo tutta l'intenzione di muovere per difendere i nostri interessi. Come si diventava socio di Vacanze nel Mondo? Tanto per far capire anche a chi non ha seguito le vicende di Viaggi del Ventaglio, quale diritto rivendicate in questo momento, Panzeri? Per i soci di Amici Veri è una cosa molto semplice. No, io chiedo, no, a parte l'organizzazione che avete fondato adesso, proprio in precedenza, voi ex soci di Vacanze nel Mondo avete fondato l'associazione Amici Veri, ecco, ma prima, in sostanza, chi era il socio di Vacanze nel Mondo? Ma il socio di Vacanze nel Mondo era una persona, una famiglia o chi per esso, che era abituata a viaggiare spesso con il gruppo Ventaglio. Succedeva questo: viaggiavi un 3-4 anni senza essere socio, poi verificando che l'assistenza era ottima, che i villaggi erano molto belli, che il trattamento italiano, considerato italiano, ce l'avevi in tutto il mondo, senza distinzione, indipendentemente di dove tu andassi, a questo punto abbiamo cominciato ad aderire alle varie organizzazioni che il Ventaglio ha messo in piedi. Si parte dagli anni 95-96, quindi siamo molto indietro nel tempo, quando i primi pacchetti vacanze sono stati venduti ai viaggiatori che avevano provato quello che era il Ventaglio, intendevano proseguire anche negli anni futuri l'azione del Ventaglio, ritenevano che fosse conveniente acquistare con uno sconto in anticipo le vacanze che poi sicuramente avrebbero fatto. Quindi lei, per esempio, quanti pacchetti ha acquistato in anticipo e quanti pacchetti non è riuscito? No, io ho acquistato dal 2000 un 5 in 5 per la durata di 12 anni, e quindi me ne mancano, teoricamente me ne mancherebbero 5. Beh, tutto sommato, forse c'è qualcuno che magari non è riuscito neanche a far nulla. Ma benissimo. Diciamo gli ultimi, coloro che hanno acquistato i punti Free Point, e la cosa grave secondo il punto di vista è quello che si è venduto pacchetti turistici a settembre, ottobre, dicembre del 2009, quando ormai la situazione era acclarata. Era compromessa quasi radicalmente. È la cosa più grave, c'è gente che ha versato 5.000 10.000 euro e non ha sfruttato assolutamente niente. E questo è vero, però come si ricorderà anche per le rimandando ancora una volta alle puntate che abbiamo fatto a luglio, effettivamente, e questo va riconosciuto anche grazie alla grande professionalità di tutte le persone che lavoravano in questo enorme circuito, che non hanno mai fatto mancare fino all'ultimo momento l'assistenza alla clientela di questo gruppo, tutto funzionava anche piuttosto bene, nel senso che mi ricordo che questo ascoltatore che ci aveva chiamato, che stava partendo per una vacanza organizzata in Calabria, e sulla base di quello che stava sentendo dalla nostra trasmissione si era spaventata a morte, ha fatto tranquillamente la sua vacanza in Calabria a fine luglio e la società era stata dichiarata fallita il 15 luglio, per cui diciamo che tutto è mediamente funzionato abbastanza bene fino all'ultimo e anche oltre, per cui insomma ci sarebbero tante cose da dire. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi se vorrete. Non stiamo prendendo delle telefonate perché stanno continuando ad arrivare chiamate di ascoltatori che ci chiedono di Alitalia, ma credo di non aver più altro da dire, almeno al momento. Lehman Brothers, ci ritorneremo presto, Luigi, su questo argomento, perché anche qui bisogna fare un punto su chi è titolare delle vecchie obbligazioni, appunto, della banca americana clamorosamente fallita. Tante considerazioni appunto ancora su pure sui Tango Bond, ma vedo che ancora non ci sono all'ascolto ascoltatori che evidentemente hanno prenotato di viaggi con Viaggi del Ventaglio e che adesso si ritrovano praticamente questo titolo di viaggio senza poterci far nulla. Allora, volevo ritornare all'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore, perché a gennaio si tengono intanto delle udienze importanti al Tribunale di Milano e intanto bisogna vedere se la Corte di Appello del Tribunale appunto del capoluogo lombardo accoglierà i ricorsi presentati dalla famiglia Colombo, perché se ho ben capito, se saranno accolte queste richieste dei Colombo, il fallimento dichiarato il 15 luglio potrebbe essere annullato e quindi il Ventaglio potrebbe uscire dall'amministrazione giudiziale? Con che conseguenze? Sì, ecco. La decisione della Corte d'Appello può essere di revoca della dichiarazione di fallimento fatta dal Tribunale. Resta salva comunque tutta l'attività fatta dal curatore nel frattempo e quindi ovviamente gli organi della procedura adesso proseguono il loro lavoro. Se eventualmente ci sarà una revoca della dichiarazione di fallimento, ovviamente la società tornerà, come si dice, in bonus, non la vediamo molto. Vedremo in bonus, infatti, però, con questi 200 milioni di debiti e tutte le perdite accumulate. Avvocato, siamo sicuri che adesso, almeno non vorrei che vi giungesse qualche segnalazione di qualche vostro associato, siamo sicuri che adesso nessuna agenzia vende più pacchetti di questo tour operator? No, noi non abbiamo ricevuto segnalazioni di questo genere, direi proprio di no. Io le dico, stamani abbiamo depositato noi in tribunale a Milano al dottor Orsi una nostra memoria che abbiamo elaborato un po' da tutti i dati che abbiamo raccolto da queste persone, perché chiediamo di fare luce oltre sul fatto di questa eventuale truffa che ci fosse per le vendite nei tempi un po' sospetti, anche per l'esito delle vendite invece di immobili e di villaggi a Santo Domingo, a Capo Verde, all'estero, insomma, che poi questi soldi qua non ci risulta che siano finiti nelle casse della società, così come anche tutti i soldi versati dai vari clienti del Ventaglio in realtà venivano pagati a società estere, per cui secondo noi c'è un gran ginepraio in cui bisogna fare luce assolutamente. Infatti, un'altra data invece importante è quella del 19 dicembre. E quindi un mese prima rispetto alle prime udienze che sono previste proprio per gennaio, come dicevamo, cioè ai clienti che abbiano effettuato delle prenotazioni di viaggi e che evidentemente non hanno goduto di questi viaggi pagati e prenotati con appunto relativo versamento di questi imposti, possono chiedere entro metà dicembre di essere ammessi. Avvocato Ferrari, ci aiuti anche lei su questo punto, al passivo, cosa vuol dire e come si può fare? Allora, praticamente devono precisare l'entità del loro credito e quindi chiedere di essere pagati. Ovviamente poi purtroppo si tratta di creditori chirografari, quindi insomma l'ultima ruota del carro nel sistema dei pagamenti di una procedura fallimentare. Perché prima per esempio ci sono i fornitori che avevano dei debiti commerciali scaduti, quindi prima vanno rimborsati quelli, un'altra tipologia di creditori. Esatto. Ci sono varie altre categorie sicuramente. Per esempio, l'INPS con i contributi da versare per i lavoratori. Certo, ecco, le banche hanno sicuramente delle garanzie. E poi i costi della procedura, perché qua non sono indifferenti. Sì, però pazzesco che i clienti finiscano addirittura nella categoria di serie B. Detto questo, quindi, come si fa a fare l'iscrizione al passivo, avvocato? Allora, sul sito del Tribunale di Milano c'è un primo modello che è stato messo, fatto dalla stessa curatela. Diciamo che da parte nostra già abbiamo delle contestazioni su come è fatto, perché a nostro avviso il credito deve essere precisato in maniera diversa, e così stiamo istruendo, diciamo, le persone che hanno aderito alla nostra iniziativa. Semplicemente le faccio un esempio. Sì. Una persona che 10 anni fa ha comprato un pacchetto pagandolo 10.000 euro, ogni anno poi gli veniva rivalutato il suo buono annuale, per cui se fa, per esempio, il primo anno avrà avuto, che so io, un buono da 1.000 euro, l'anno dopo da 1.100 magari, perché veniva calcolato anche la svalutazione e l'aumento dei costi dei viaggi. Se io faccio la somma di tutto quello che ho già percepito, di cui ho già usufruito, addirittura alcuni si troverebbero addirittura a debito verso la società, perché rispetto alla somma inizialmente versata sembra che non abbiano più credito. In realtà, secondo noi, il meccanismo di calcolo deve essere diverso. Panzeri, siete d'accordo? Abbiamo una posizione forse ancora un po' più forte, più strong. Più forte su questo argomento. Noi riteniamo che se io ho investito 10.000 euro per avere un teorico ritorno di 14.000 euro di viaggi, io chiedo la differenza tra quanto versato e quanto teoricamente avrei dovuto ricevere. Quindi se dovevo ricevere 14.000 euro di ritorno, io ne voglio 14. Senta, Panzeri, però volevo dire una cosa. Per quanto riguarda invece quello che aveva detto l'avvocato, la parte relativa ai villaggi che sono stati venduti o che non sono ancora stati venduti. Quanto patrimonio immobiliare ci sarebbe ancora in circolazione? Ce n'è ancora un bel po' di queste cose. È ovvio che essendoci dietro tutto un giro di società straniere diventa difficile fare un'analisi. Una ricostruzione precisa, certo. Ma questo andava bene nel momento in cui c'era il concordato, ma nel momento in cui c'è il fallimento, tutto viene riportato dentro nella fallimento originale, quindi tutto quanto ritorna in discussione, in valutazione di merito in questo caso. Per quanto riguarda invece la parte relativa all'inserimento nel fallimento, esatto. Voi lo state facendo come Amici Veri Ferrari? State suggerendo anche le procedure ai vostri associati per intraprendere questo percorso? C'è tempo fino a dicembre? No, Panzeri, volevo dire Amici Veri, mi scusi. Sì, allora abbiamo già sentito il curatore fallimentare, abbiamo predisposto una modulistica adattata a quelle che sono le esigenze dei nostri soci, perché non si tratta soltanto di Free Point, ma si tratta di una svariata ed enorme quantità di contratti, tipologia. Quindi per ogni singolo contratto c'era una valutazione. Le faccio un esempio: alcuni contratti erano rivalutati in base all'indice Istat, alcuni contratti non avevano la rivalutazione. Allora, Panzeri, io devo chiudere, come sento già la sigla sotto, tanto abbiamo tutto il tempo da qui a dicembre di ritornare su questo tema, magari ci ritorniamo dando proprio le precise istruzioni per poter compilare anche la documentazione per essere ammessi al passivo. Grazie intanto ad entrambi, all'avvocato Giovanni Ferrari e a Francesco Panzeri, per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani, buona giornata a tutti. Salvadanaio.